Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Amici. Amici di Blu Radio Veneto, buonasera a tutti, benvenuti in frequenza. Che felicità, oggi il 3 settembre del 2013, ancora un benvenuto da parte di Flavio Bilato sulle nostre frequenze, sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Inizia il martedì sera con la musica live, insieme a me c'è Maurizio Casavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, anche in questa serata diciamo che abbiamo la fossa piena di leoni, no? In questo caso, perché abbiamo un'altra band, una band che si fa sentire, perché c'è subito un concetto da stabilire prima di presentare la band. Ci sono modi e modi di stare calmi, è vero Maurizio? Decisamente. Poi hai parlato della fossa dei leoni, loro vengono da Brescia, più leoni di quelli. Eccolo qua, e quindi diamo il benvenuto appunto ai leoni di Brescia, che sono i Mary Dolls. Buonasera ragazzi. Buonasera, grazie di averci invitato. Benvenuti, figuriamoci, il piacere è il piacere nostro di avere la vostra musica qui all'interno della nostra programmazione. Assolutamente live. Allora, abbiamo appunto citato in principio, ci sono modi e modi di stare calmi, perché c'è subito il titolo del vostro disco che invita alla calma, proprio chiamando la calma. Però ascoltando noi per primo il vostro disco e adesso in questa serata facendolo ascoltare agli ascoltatori, bisogna chiarire subito del perché avete diciamo chiamato così il vostro disco. Allora, abbiamo ospiti in studio Paolo, voce e chitarra della band Mary Dolls, e poi ancora Lorenzo al basso, mentre salutiamo a distanza chi ci sta ascoltando da casa, ovvero Michele alla batteria. Benissimo, allora chiariamo tutto con ordine. Perché la calma? Ma guarda, la calma è un concetto, cioè abbiamo voluto giocare col concetto opposti, ovvero un disco molto caotico e molto rock, dal titolo appunto La Calma, quindi due cose opposte, probabilmente anche perché abbiamo avuto un annetto e mezzo, anche due anni molto difficili in cui siamo dovuti rimanere calmi per riuscire ad andare avanti. E quindi un po' era la nostra dimensione che abbiamo dovuto ricercare in questo annetto e mezzo, e un po' abbiamo voluto giocare con i contrasti, diciamo. Benissimo, e poi all'interno di questa trasmissione, durerà fino alle 22:30, avremo modo di gustarci tutti i fenomeni contrastanti tra loro, di quella che è la sonorità dei Mary Dolls. Quindi allora direi, ascoltiamoci subito un pezzo dall'album appunto La Calma dei Mary Dolls, per chiarire subito di che musica stiamo parlando. Quindi iniziamo proprio come inizia il disco, con questa canzone che si intitola Non passa mai. Non mi passa, scusate. Non mi passa. Non mi passa, il titolo esatto. Scusate. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E così abbiamo ascoltato quella che è la dimensione leggera dei Mary Dolls, che sono qui nei nostri studi per farci ascoltare il loro album che si titola La Calma. Abbiamo iniziato proprio con questo Non Mi Passa, dove abbiamo notato subito un rock alquanto compulsivo, una batteria forzata, una dimensione un po' cupa, dove c'è il disegno di una canzone anticonformista, no? All'inizio, proprio contro tutto e contro la gente, soprattutto quella falsamente pulita, solo quella pulita fuori ma che dentro veramente ne avrebbe da essere lavata, come succede con i jeans a volte, al contrario, no? Ecco, e poi c'è anche questa vostra, come dire, intuizione di un certo cambiamento che devono fare le persone, perché non basta cambiare faccia, bisogna cambiare qualcosa di più. Ma come si fa? E voi la fate abbastanza facile, con un copia e incolla. È vero, come è nata questa atmosfera così anche divertente, se vogliamo dire, un brano che racchiude molto un messaggio molto forte, ma pur sempre divertente nella vostra forma di cantarla. Sì, noi giochiamo molto comunque con l'ironia, nel senso che magari diciamo delle cose molto importanti, ma con un registro abbastanza ironico, anche per buttarla un po' sul, appunto, sull'ironia. Sì. Spero che non ci sia la tragicità leggermente un po' dipanata, un po' allentata, possiamo dire. Flavio ha citato la cupezza del pezzo. Sì, è un pezzo cupo, sono d'accordo. Però un cupo che raccoglie un pizzico di melodia nell'interno, specialmente nel ritornello. Chi ha avuto questa idea del ritornello così melodico? Il ritornello deve essere sempre melodico, perché deve essere recepito immediatamente. Secondo me ce l'hanno avuta in Nirvana molto tempo fa. Ecco. Noi l'abbiamo copiato, no? Cioè, ma in effetti c'era un pizzico di Nirvana, ma no, non abbiamo detto, l'hanno detto. Ma non si aspettava il copia incolla, come si diceva verso la fine, ma c'è sicuramente un vostro credito particolare nei confronti dei Nirvana, che vi hanno naturalmente fatto da base per quella che è la vostra esperienza ora. Per chi fa rock in Italia, ragazzi che fanno rock della nostra generazione sono passati tutti. Nevermind l'hanno sentito tutti, praticamente. Sentito tutti. Penso che sia cioè così. È un po' è una specie di manuale di riferimento, esatto. Diciamo, è nel così. Nostro DNA. È nel nostro DNA. Certo, certo. E poi ovviamente da lì bisogna partire per ognuno trovare il proprio percorso. Esatto, hai detto una cosa giusta. Ovviamente bisogna partire da lì, perché non bisogna fermarsi là. Ecco, un percorso musicale, Maurizio, che i Mary Dolls hanno iniziato nel lontano 2001. Diciamo lontano, sono passati 12 anni, i ragazzi sono giovanissimi e quindi vuol dire che vi siete trovati subito all'uscita dalle medie, si può dire, no? Praticamente sì, siamo sì. Sempre noi tre. Sì. All'origine c'eri tu, Paolo, assieme al cugino Michele, no? Sì, poi, ma lì parliamo proprio di davvero, degli albori, sì, delle sì, medie. Facevamo sì. I concerti in due, avevamo vinto. No, e dopo poco dopo è arrivato Lorenzo e il nostro attuale produttore che ci segue quindi ormai già da 12 anni, Paolo Damiano. E avevamo già vinto dei premi con il Vitaminica Awards 2001, mi sembra. Psicobambola avevate, esatto, deciso, sì, all'epoca. Poi ci chiamavamo Plassivo. Ah, come? Plassivo. Ah, Plassivo, poi per stare attenti, Plassivo, non Plassivo. Abbiamo detto cambiamo. Si sa mai. Perché la B e la V, la B e la V, esatto, la V di Bari e la V di Venezia, esatto, sono molto simili. In effetti in Spagna leggono la V, la leggono B, in Grecia la B la leggono V, per vedi. Cui insomma qua in Italia siamo ancora salvi. Benissimo. E quindi appunto il 2001 con i primi albori della band e poi quindi quasi come un White Stripe, no? Quindi chitarra e batteria e poi l'aggiunta del basso determinante di Lorenzo, che si sente, spacca e come all'interno del pezzo. Anzi, non so chi sia il più calmo di tutti, ma di nessuno, forse vivo il produttore, nessuno. Ecco, forse dal vivo nessuno, anzi dico ai nostri ascoltatori già in principio, se volete farvi un'idea di chi abbiamo in studio, curiosate ascoltando in streaming audio la nostra trasmissione anche su internet per vedere le varie relazioni su YouTube che ci sono e che parlano di Mary Dolls. Insomma, se siete stanchi vi risvegliate subito, immediatamente. Allora, noi siamo partiti chiedendovi il perché della calma, il perché di come è nata questo Non mi passa, il primo pezzo che abbiamo ascoltato. E dopo la canzone che vi costringiamo a suonare live, non sto scherzando, perché Paolo e Lorenzo sono venuti qui muniti di chitarra e basso, rigorosamente in acustico, perché vi fanno sentire quella che è la dimensione acustica di una band rock molto molto forte. Abbiamo avuto modo di sentire i Nirvana come si esprimevano anche nella loro parte di Unplugged di MTV, che è il più venduto dopo quello di Eric Clapton. Assolutamente il più venduto in assoluto dopo quello di Eric Clapton. Io ce li ho tutti e due. Perfetto. Vabbè, vabbè. Perfetto. Quindi assolutamente per me era patta tra i due. Ecco, e quindi li ascoltiamo della dimensione live. E ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che questa trasmissione, in cui stiamo piacevolmente parlando di musica di Mary Dolls, verrà anche postata sul nostro sito internet, in maniera che poi la possiate far propria e diciamo sistemare assieme al CD di cui entrerete in possesso. Poi vi diremo anche come fare. Allora, Mary Dolls, pronti? Un altro pezzo dall'album, questa volta in versione acustica, si intitola Un altro me, qui a Blu Radio Veneto. Voglio avere 3 anni e fare il bagno con le papere e non pensare a niente. Voglio avere un momento per stare con me, voglio piangere sempre. Scusa, è che pensavo come se ci fosse un altro me, ci fosse un altro me. Voglio avere 20 anni per fare la guerra e rischiare ogni minuto la pelle. Lo farei per qualcosa, lo farei per me. Voglio piangere sempre. Scusa, è che pensavo come se ci fosse un altro me, ci fosse un altro me. Voglio avere 100 anni e morire giovani, voglio avere la peste e voglio saltare il muro e vedere chi c'è, voglio rischiare sempre. Scusa, è che pensavo come se ci fosse un altro me, ci fosse un altro. Un altro me, scusa. fosse un altro me. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Questa canzone si intitola Un altro me, a cantarla qui in diretta allo studio in versione acustica sono i Mary Dolls, che sono venuti qui in diretta, anzi li ringraziamo ancora una volta per averci portato anche il loro ultimo lavoro, si intitola La Calma. Quindi un altro me, parte con una chitarra leggera, definiamola così, che poi si fa accompagnare ben distintamente dal basso. Adesso l'abbiamo ascoltato in una versione acustica. Chi molto avrà interessante modo di ascoltarla anche dal disco ne coglierà l'effettiva differenza. Certo. Poi rappresenta un po' un ritorno a quella che è la giovinezza e poi anche un sentimento di voler cambiare anche la propria vita e anche fare un gioco che si chiama Sliding Doors, quindi vedere come sarebbe andato in una maniera piuttosto che in un'altra per continuare in maniera diversa la propria vita. Come si diceva già in principio, ai Mary Dolls piace un po' giocare sull'ironia della vita, sull'ironia dell'esistenza in questo caso. Paolo? Sì, sì, infatti hai detto benissimo e questo pezzo parla un po' appunto delle varie tappe della vita, delle varie cose che potrebbero succedere, della voglia di vivere una vita autentica e magari questo rimane solamente una voglia per alcuni, mentre altri hanno il coraggio di tentare qualcosa in più. Poi ovviamente ci sono degli eccessi nel testo voluti per rendere il... Sì, sì, per dare forza, per dare sì, ancora di più vivo il messaggio. Un altro metro, altre cose, che è il quarto singolo estratto da La Calma. Sì, perché il video è stato girato anche un po' più in giù. Sì, un po' più in giù, nel Polesine. Nel Polesine. Sì, sì, siamo circa una 35-40 chilometri, sì, da dove l'avete girato. Comunque. Ha una bella storia in altro metro. Intanto dobbiamo studiare una cosa, Flavio. È un combo, il classico combo. Sì. Quindi batteria, basso e chitarra. Cream Docet, chiaramente, il classico combo era il Cream. Voi non siete i Cream, chiaramente, però l'idea del basso, batteria e chitarra è questa. C'è poco da fare. Benissimo, dopo questo complimento andiamo avanti a spiegare un attimino come è stato costruito questo video. La Calma, nel Polesine, ci siete trovati con Stefano Bertelli. Esatto, un regista molto, molto in gamba, sì, che ha lavorato con grandissimi artisti di livello nazionale. Ricordiamo anche Marlene Kunz, Marta sui tubi, Caparezza. Sì. E ci siamo in questo caso, mentre negli altri video diciamo virali da noi autoprodotti con un regista nostro amico abbiamo voluto noi dare l'impronta e l'idea del video, in questo caso ci siamo abbandonati completamente al regista e gli abbiamo detto fai di noi quello che vuoi, che vi ha guidati praticamente. Sì. E ci siamo trovati lungo la in una spiaggia, in questo posto molto, come dire... Che non fa sentire che siete direttamente nell'Adriatico, diciamo, nel mare. È tutta una situazione che invito anche gli ascoltatori, se non avete mai visto il Polesine in tutti i suoi colori, non pensiate ci sia solo nebbia da quelle parti. No, c'è anche molto da vedere. Anche le zanzare. Salutiamo anche le zanzare. Anche le zanzare, con la targa. Con la targa. È entrata superiore. Dobbiamo dire la storia di Un altro me, perché è una storia interessante. C'è Sanremo che corre su Un altro me. Sì, com'è il discorso? Un altro me è un pezzo che avevamo presentato all'ultima edizione di Sanremo. Siamo arrivati ai provini, alle selezioni di Roma dei 60, nei 60. Nei, purtroppo ne sceglievano solo 6 ecco. però è stata comunque una bellissima esperienza per noi, anche perché è stata la EMI, una major, a portarci, a credere in noi, quindi senza dubbio quindi qualche porta si è aperta, sì, ma anche come musicisti trovarsi in un ambiente come quello, mettersi a confronto con musicisti in gamba e anche tanti anche già affermati, perché comunque abbiamo conosciuto il Cile, chi è che c'era? C'erano i Capo Nord, c'erano Nardinocchi portato sempre dalla EMI, la Stema, quindi gente che avevano già gamba, un certo che comunque era da tanti anni che lo stesso Pagani, che comunque l'anno scorso è stato direttore artistico di Sanremo, insomma una bellissima esperienza. Certo. Peccato non averla colta fino in fondo, ma d'altronde c'è sempre il fatto Sanremo sì o Sanremo no. Allora voi cosa direste? Sanremo ni? Esatto, Sanremo ni. Però è importante Sanremo, quello che dalle tue parole, al di là di tutti i discorsi che si possono fare, è un buon trampolino di lancio per un gruppo giovane, anche se poi il gruppo giovane viene fatto sentire alle 2 di notte, ecco. In ogni caso ti dà la possibilità in 5 minuti di farti vedere, è quello importante, ascoltare da un bacino di persone che non potresti mai avere, comunque avere pur suonando, sì, esatto, 50 concerti, 60 concerti in un anno. Chiaro. Certo, solo che magari col concerto dal vivo perlomeno la vostra dimensione dà il massimo, invece di vedere le persone lì sedute lontane rispetto al palco di Sanremo, che sì, vabbè, devono gustarsi comunque, sì, questa canzone, però forse non danno lo stesso entusiasmo. Io mi sarei lanciato, no? Sì, sì, sì, sì, pubblico. Bene. Tranquillo, tipo qualcuno, chi era? Peter Gabriel a Sanremo, sì, no? Sì, si è lanciato con Drop the Monkey. Esatto, proprio quello. Sì, esattamente. Ecco qua. Benissimo, allora Mary Dolls qui in diretta per parlare del loro ultimo lavoro che si intitola La Calma. Allora, stiamo calmi e inseriamo ancora una volta il CD sul nostro CD player, perché è giunto il momento di ascoltare un altro pezzo con un titolo davvero particolare. Prende da lontano un po' un titolo di Pink Floyd di qualche tempo fa, ed è Mi faccio a fette. Eccoli qua, i Mary Dolls. We'll be right back. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Allora, definirei molto beat questo pezzo con questi na na na, molto, prende molto il ritornello, e che questa canzone è una riflessione mattutina, diciamo, lo fanno un po' tutti prima di mettersi all'opera, e quindi c'è sempre la fame di nuove esperienze da fare subito, da fare immediatamente. Poi finalmente si raggiunge una certa sazietà che però dura poco, e quindi ci si mette ancora all'opera per mangiare, ma non nel senso proprio le fette biscottate a cui si poteva fare riferimento, o le fette di pane, ma mangiare di esperienza, diciamo così. Poi all'interno di questo pezzo abbiamo anche sentito un'armonica a bocca intervenire. A chi l'avete rubata in questo caso? In realtà questa l'ha suonato il nostro amico dei Four Exit Butchers, che è un gruppo bresciano che è stato a Berlino per tanto tempo. Quindi abbiamo molte collaborazioni all'interno di questo disco. Fantastico. Sì, questa più che collaborazione è proprio una comparsata molto amici, una comparsata, è venuto un secondo e ha suonato l'armonica. Perché Butchers è uno dei gruppi con i quali sin da subito, dall'inizio, abbiamo condiviso serate, palchi. Che tu parlavi a microfono spento, caro Flavio, della bella realtà bresciana. Ci sono un sacco di gruppi a Brescia, vero? Gruppi e tanti generi. E tanti generi. Ci sono un sacco di cantautori, gruppi rock. Quindi una scena viva, assolutamente. Anche viva. Anche posti, situazioni personali, festival locali. Che danno possibilità di far suonare dal vivo. Esatto. Quindi c'è una dimensione, diciamo, attiva anche da chi deve organizzare, diciamo, gli eventi. Magari in molte città non è così, perché si ha paura un po' anche di questi, come dire, elargizioni di denaro magari date a vuoto, perché non sempre si può scommettere su dei gruppi nuovi, su quello che potranno portare in fatto di gente, e quindi poi anche di soldi. In particolar modo faccio riferimento anche a tutti i pub che ospitano sempre i gruppi minori o meno, che naturalmente hanno bisogno di un certo incasso, che purtroppo non sempre raggiungono, forse perché c'è troppo, perché c'è troppo poco, perché non ci credono proprio. È un discorso molto complesso. Diciamo che la qualità paga sempre, ovvero anche sul discorso cover band piuttosto che musica propria. Noi crediamo nella musica vostra. Sì, chiaramente. Ecco, però, credendo nella musica vostra e dovendovi proporre in giro, non stiamo parlando di adesso, che siete, diciamo, conosciuti, e quindi la vostra gavetta l'avete già, diciamo, portata a termine già col primo disco, di cui parleremo magari in una breve parentesi. Però all'inizio, quando eravate in due, oppure anche con l'aggiunta di Lorenzo subito dopo, vi proponevate con musica di altri? Quindi citavamo prima in Nirvana? No, mai avuto qualche cover si faceva, si fa ancora, anche non dei Nirvana, anche di altre band, però diciamo che abbiamo sempre portato avanti quello che era qualcosa da dire da parte nostra, quindi pezzi nostri, la vostra proposta praticamente. Esatto. Al di là di tutto, ma perché altrimenti secondo noi non ha molto senso. Vero, ma questa è una situazione, come diceva giustamente Flavio, bella a Brescia. Negli altri posti un po' meno, c'è più difficoltà a recepire una band che porta avanti i propri pezzi. Almeno dalle nostre parti è un po' più difficile, insomma. Diciamo che se ci sono dei locali che ti supportano, come per fortuna ci sono a Brescia, è facile, è bello ed è più semplice. Certo. Che non è così per tante realtà in altre città. Per noi, diciamo, è stato un pochino più facile, perché comunque a Brescia ci sono tanti locali con tanti gestori che credono nella musica indipendente, dalla musica comunque originale propria di che a Brescia è la patria ragazzi. Di due band fondamentali, i Timoria e gli Scisma, quindi Scisma. Hanno dato un certo impulso alla new wave cosiddetta italiana, e non era poco, quindi no. Una cosa positiva. Che poi non è detto neanche che tanti luoghi, tante band sia terreno fertile per nuove band, perché magari aumenta la concorrenza, è ancora più difficile per le piccole band uscire. Sì, complesso. Sì, però di sicuro è più vivo una realtà come Brescia, ma ce ne sono anche altre, ad esempio Milano un'altra, Torino un'altra, ma qua anche Bergamo. Anche Bergamo, sì, anche Bergamo, qua, è vero. Anche Bergamo, sì. qua non sappiamo, però qua com'è? C'è ma qua com'è? Beh, un po' meno. Intervistiamo noi adesso. È un po' stasera ci siete voi, quindi assolutamente un po' meno, anche se abbiamo ospitato delle band veramente in gamba, del padovano, del vicentino, veronese, trevigiano, ce ne sono tante. Però diciamo che siamo riusciti a spaziare noi di Blu Radio Veneto più dalle vostre parti, quindi Brescia, Bergamo, anche Como, anche Milano, Piacenza, tutte quelle zone molto molto molto rigogliose, sì. Sotto tutti i tipi di musica, a partire dal folk per arrivare al rock più duro, quale potrebbe essere anche il vostro. Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con i Mary Dolls, che sono venuti a trovarci da quel di Brescia. Un sito internet, punto di riferimento per i Mary Dolls, quindi è www.marydolls.it, ricordiamo con la I scritta York, quindi Mary Dolls, e non vi ho chiesto perché vi chiamate così. Avevi fatto benissimo. Allora tiriamo oltre, ricordiamo questo sito internet. No, ce lo vuoi dire? No, nel senso che adesso qui diremo la verità, ogni volta noi ci inventiamo delle storie diverse, e anche Bravo. Questo è molto bello. Sì. È che eravamo talmente giovani quando abbiamo già avevamo sbagliato complessivo. Poi abbiamo scelto Mary Dolls perché eravamo molto giovani, ci piaceva, poi in realtà non ha molto senso. E col senno di poi avremmo usato un altro nome, ora ormai ce lo teniamo. Esattamente. Comunque suona bene. Sì. Allora ricordiamo appunto questo sito internet marydolls.it, all'interno del quale ci sono molte informazioni che per questo vostro progetto, per questo lavoro che si intitola appunto La Calma, con molti video che si invitano a vedere un po' di tutti quelli che sono i pezzi. Un pezzo che non sentiremo perché non ci sarà il tempo, è proprio tangenziale, che è un po' un invito al contrario, nel senso, voi siete un po', come dire, terrificanti nelle vostre enunciazioni a volte, permettetemi questa parola. Mi ricordavo un brano di Lucio Battisti dove diceva guidare a fari spenti la notte, eccetera eccetera, e voi più o meno siete lì con questo. Sì, però questo in realtà messaggio. È un invito ad andare controcorrente, a fare cose fuori dal gregge, però se lo dici così ma sai che magari qualcuno legge alla lettera, no? la cosa, e quindi è bene sempre parafrasare quelle che sono i messaggi. E poi i Mary Dolls sono pienamente dotati di ironia, per cui vanno letti e parafrasati non una ma due volte. Allora, prima, mentre provavamo gli strumenti, è venuta così per caso, non so se volevate già inserirla, una canzone che noi abbiamo subito brevemente guardato, non è né del primo album né del secondo, insomma, ci avete rivelato, è nuova. Ok, allora se l'ascoltiamo prima e poi la commentiamo insieme. Come si intitola? Berlino. Eccola qua, Blu Radio Veneto con i Mary Dolls, Berlino. E sono andato a Berlino, sono andato per niente, sono tornato invecchiato, forse quello di sempre. Là non succede niente, qua non succede niente. E sono andato a Berlino, sono andato per niente, sono tornato invecchiato, forse quello di sempre. Là non succede niente, qua non succede niente. Hai bisogno di me per passare le feste, ho bisogno di te per montare le tende. Berlino c'è, ma Berlino è dentro di me. dice guardati dentro, trova quello che sei, cercalo lì dentro. Padre, quello che vedo è tutto quello che manca. Padre, quello che vedo è... E mangia le vitamine che ti senti più forte, metti la testa a posto, dai adesso sei grande. Berlino c'è, Berlino è dentro di me. Berlino c'è, Berlino è dentro di me. E pago un giorno di più dallo strizza cervelli. Dici quello che sei, non è quello che sei. Io mi voglio diverso, io mi cerco lo stesso. È un progetto di vita, aiuta e limita i danni. Dimmi come sarai fra 80 anni. Io mi vedo diverso, io mi vedo diverso, ma mi abituo lo stesso. Berlino c'è, Berlino è dentro di me. Berlino c'è, Berlino è dentro di me. Berlino c'è, Berlino è dentro di me. Berlino c'è, Berlino è dentro di me. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. 21 e 40 minuti primi, sempre all'interno di Blu Time Live, programma all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto. Ancora una buona serata da parte di Flavio Bilato e di Maurizio Calzavara. Insieme a noi ci sono i Mary Dolls, sono venuti a trovarci per presentarci il loro ultimo lavoro che si intitola La Calma, però il pezzo che ci siamo ascoltati in questo momento non fa parte dell'ultimo lavoro, bensì un inedito che cominciano a far ascoltare proprio in questo periodo. Allora sentiamo da Paolo e Lorenzo, che sono qui con noi, come mai una canzone dedicata a Berlino? Berlino che comunque è molto importante da un punto di vista culturale, quindi vi ha toccato dentro in questo caso. Sì, Berlino è considerato un po' l'America, no? Per quanto riguarda la musica, la cultura e l'arte in generale. Questo un po' cerca di sfatare, cioè non è che cerca di sfatare questo mito, però in realtà è la ricerca di un'America fuori. Magari uno va a Berlino per cercare e immagina di trovare chissà che, poi in realtà quello che va a cercare là deve cercarlo dentro di sé, no? Questo è un po' il senso. Poi ovviamente c'è la nostra ironia che arriva imperversa. Esattamente, hai citato anche lo strizza cervelli, quindi sì, anche sì, quello fa parte. Sì, Berlino è rappresentata, come Flavio giustamente diceva, anche dal punto di vista musicale, a New Wave, praticamente quella della New Wave europea, non soltanto europea. Cioè, parlando di David Bowie, i tre famosi album che lui fece a Berlino con Brian Eno, indice di un certo modo di far musica. E poi ricordiamo anche un altro grande seguace di David Bowie, un certo Garbo, esattamente, Garbo, a Berlino, che invece cantava a Berlino che giorno è, ecco, sì, esattamente, anche lui era una New Wave italiana, Garbo, dobbiamo sottolinearlo, sì, molti se lo dimenticano, ma era un padre della New Wave italiana e che faceva riferimento assoluto, certo, a questa realtà di Berlino. Allora noi questo pezzo l'abbiamo sentito in una maniera assolutamente acustica e non abbiamo avuto la controproposta di ascoltare il pezzo da CD, ma sicuramente questo, naturalmente, nell'ambientazione live, compresa anche la batteria di Michele, raggiunge una certa dimensione forte. Sì, lo stiamo facendo dal vivo negli ultimi due o tre concerti e devo dire che pesta bene, sì, piace. Sì, piace. Ma c'è sempre questo ritornello, questa melodia, nonostante tutto la potenza dei pezzi, nelle diverse tracce del disco c'è sempre questa melodia che entra, esce e entra immediatamente, ma c'è, presente, è un'idea vostra, è un'idea di costruzione del pezzo, di scrittura del pezzo. Sì. Bene. Sì. ti hanno dato ragione. No, l'hai letta bene questa. È una formula, sì, no? Sì, sì, certo. Strofo, bridge, ritornello. È chiaro, chiaro. Sì, sì, che comunque il sì. Ritornello deve essere melodico, poi nelle strofe puoi anche puoi pestare come vuoi, picchiare come succede molte volte all'interno di questo disco. Allora, stiamo parlando di La Calma, che è questo disco che è uscito da pochi mesi, quindi 2013, però c'è un altro album che vi ha visto proprio nel vostro percorso. Stiamo parlando dell'album che ha un titolo stranissimo. Si titola Brain Liquirizia. Sì, o Liquirizia Brain. O Liquirizia Brain. È uscito nel 2008 per la Mizar, che era un'altra etichetta. La Mizar, sì, un'altra etichetta alternativa, sì. Bresciana. Mentre questo è uscito per Indie Box, anche tutte e due etichette bresciane alternative. E il disco vecchio Liquirizia Benice va portato fino all'Heineken Jimmy Festival. E perché? Perché l'ha portato là? La forza del disco in se stesso, l'idea, certi messaggi che mandavate. Era un disco molto più sporco di questo, molto più grezzo. Però raccoglieva. Dimmi. Raccoglieva comunque il lavoro di 5 anni. Cioè, era una specie di compendio di tutti quei pezzi che avevate scritto. Quindi era pieno di belle idee, fresche, giovani. Poi noi eravamo molto giovani. Beh, siete vecchi adesso. No, però rispetto adesso. Quindi un disco assolutamente più ruvido, quello che. Più ruvido, registrato da noi nella nostra sala prove con Paolo Damiano. E quindi non avevamo decisioni dall'alto che ci impedivano di fare una cosa ruvida come piaceva a noi, mentre in questo volevamo un attimino aprirci più ad un mondo mainstream. C'erano già, cioè, avevamo un po' di... Quindi diciamo che avete anche ammorbidito in un certo senso quella che è la vostra dimensione. Che ammorbidito, abbiamo cercato di... non so, renderlo più, ma questo solo per alcuni pezzi, tipo Un Altro Me, così un po' più radiofonico, un po' più accessibile al mainstream, certo. Quindi prendere con un paio, diciamo, di pezzi un pubblico più trasversale, ecco qua. Quindi, quindi fare il crossover, per portare dentro più ascoltatori possibili, esatto. Mentre nell'altro vi ha portato online. Come è stata la... Voi avete suonato prima di determinati gruppi nel 2008, possiamo ricordare che gruppi erano? Sì, abbiamo suonato prima dei Police, prima dei Counting Crow, Counting Crow, un gruppo straordinario, della Morisette, certo. Quindi scusate, ma di tutti questi che avete citato non ne conosco neanche io. I Mary Dolls, forse. Sì, i Mary Dolls, questi ne ho sentiti parlare. Sì, assolutamente. Benissimo, allora ancora con i Mary Dolls ci meritiamo una piccola pausa di gusto ascoltando un altro pezzo dell'album La Calma. Perché non ascoltare proprio la canzone che dà il titolo all'album? Quindi eccoli qua, a Blu Radio Veneto, Mary Dolls, La Calma. No. Blu Radio Veneto. Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Eccoci qua ancora con Blu Radio Veneto e Blu Time Live fino alle 22.30. Abbiamo ascoltato questo pezzo, si intitola La Calma, fa parte proprio del CD, dell'ultimo lavoro dei Mary Dolls, ed è proprio la traccia numero 11, quella che rinvita ancora una volta alla la calma. Allora, secondo me è proprio un brano con una lirica molto molto sentita, con chitarra e basso anche abbastanza delicati, volendo vedere la dimensione totale del disco. È assolutamente un pezzo, diciamo, a livello cantautorale, perlomeno passatemi questo termine. Ma vorremmo sapere da voi, carissimi Paolo e Lorenzo, come è nata questa canzone ed esattamente cosa volevate far sentire alla gente con questa. E qua l'ironia è un po' tenuta. Sì, a freno, in effetti. È molto serio. È molto serio, diretto comunque. Sì. E poi, come dicevamo in fuori onda, gli archi danno questo senso più di spazio, no? Suonati da Manzani in questo caso. Ma il pezzo parla. È difficile questo perché è davvero serio. Quindi. Lascerei a ognuno un po' l'interpretazione di quello che è, un po' la ricerca di se stessi, se vogliamo proprio. Sì, quindi allora diciamo, Paolo, come fare per entrare in possesso del disco? Anche perché così all'interno c'è la possibilità di ascoltare i pezzi e di leggere e quindi seguire il tutto con i testi. Per cui magari dove non si capisce qualcosa, poi eventualmente chiedete di, non so, mandate una mail ai Mary Dolls che vi spiegheranno qual era la loro intenzione prima. No, sto scherzando naturalmente. Quindi Paolo, come si fa per comprare un disco dei Mary Dolls? Beh, su tutti i portali di musica digitale, iTunes e quant'altro, si trova. Nei negozi si può richiedere il CD fisico oppure sul sito di Feltrinelli. Oppure i nostri concerti, che è il modo migliore. Assolutamente, tutti dicono che è il modo migliore nella dimensione live, perché poi chi viene ad ascoltare la musica live si porta a casa un pezzo dell'esperienza. Posto, sì, perlomeno un CD che è stato lì per tutto il concerto, no? E quindi assume un sapore di più, diciamo, di questa dimensione Mary Dolls. Abbiamo citato Nicola Manzani, ricordiamo che in arte Bologna Violenta, quello è la sua immagine, la sua presentazione. In ogni caso ha fatto un lavoro molto interessante, molto importante, molto significativo, quasi trasgressivo in questo pezzo, perché è un violino suonato un po' in modo particolare, non così un violino etereo, sì, etereo fino a un certo punto, che poi io potevo definire la quiete prima della tempesta, non dopo la tempesta, secondo me, perché è un finale molto forte, molto psichedelico, possiamo dire anche questo. Sì. Per quello l'abbiamo scelto io e il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che salutiamo, che arriverà fra qualche momento, come pezzo lancio. È proprio un pezzo lancio atipico, chiaramente non è un singolo, però è un pezzo molto significativo. Sì, infatti non è un singolo, anche se dà il titolo al disco. Esattamente. A proposito di saluti, ricordiamoci, sì, esatto, anche di salutare Deborah Dolcetto, che dell'ufficio promozione, che ha fatto di tutto per portare i Mary Dolls qui da noi. Ancora grazie. Ricordiamo ancora una volta ai nostri ascoltatori che questa è sì musica da sentire e risentire, sia col disco sia con le nostre registrazioni che poi proporremo nei nostri podcast. Quindi all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it, nella pagina riservata ai Mary Dolls, dove adesso c'è il click per ascolta la diretta, sarà sistemato anche quello che è il podcast con le dimensioni live dei pezzi dei Mary Dolls, comprese anche tutte quelle che sono state le nostre chiacchiere relative appunto alla musica dei Mary Dolls. E poi ricordiamo che sono scattate alcune foto, ve ne siete accorti ragazzi, no? Il flash di Maurizio non perdona mai, e queste verranno pubblicate sempre all'interno del nostro sito, così tanto per far rivivere quella che è la dimensione non solamente acustica che si vive appunto in radio. Adesso un altro pezzo in acustico, cosa vi facciamo sentire? Luna, che benissimo, è sempre del disco. Benissimo, allora Luna qui a Blu Radio Veneto con i Mary Dolls. Mi prende la luna, notte di luna, prendi solo me. E prendimi luna, dolce luna, prendi me. La luce che c'è intorno a me. E dolce luna, chiara luna, balla per me. E balla nuda alla luna, balla per me. La luce che c'è intorno a me. La luce che c'è intorno a me. E sei la vita che solo me. E balla nuda alla luna, balla per me. La luce che c'è intorno a me. La luce che c'è intorno a me. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Questa canzone si intitola Luna, l'abbiamo ascoltata dagli strumenti qui in diretta dei Mary Dolls, voce, chitarra, basso e cori. Loro sono Paolo e Lorenzo, mentre salutiamo a distanza chi la prossima volta dovrà assolutamente venire. La batteria di Michele, perché magari si poteva pensare, ma non so, in uno studio radiofonico, la batteria dove la mettiamo? Portate, portate. C'è spazio per tutto, come avrete visto. Benissimo, allora abbiamo ascoltato questa canzone, si intitola Luna. Inizia, per chi l'ascolterà da disco, con una viola, come sì. Abbiamo già citato, ed è una ballata dedicata alla luna e a tutte quelle che sono le emozioni legate a questo satellite così romantico, così particolare. E anche i Mary Dolls, nonostante le loro canzoni molto forti, molto spinte, decisamente spinte musicalmente parlando, hanno dato spazio anche a questa, diciamo, relazione con la luna, una specie di far l'amore con la luna. Sì, hai detto benissimo. Non so che cos'altro aggiungere. No, ci fa piacere che siamo esaustivi nell'interpretazione di quelli che sono i pezzi. Comunque questa è stata, come dire, una contemplazione alla luna, come il leopardi verso la siepe, in questo caso, Paolo. Sì, è il secondo testo più o meno serio, anche questo. È un inno alla luna, alla natura, la luna che si trasforma in una donna, se vuoi, no? Quindi la luce, l'atmosfera. Ai critici è piaciuta molto la luna, sì. Decisamente molto, soprattutto per l'arrangiamento, grazie forse anche al violino, agli archi di Nicola Vanzà. Questo tra l'altro è suonato da una ragazza che si chiama Doriana Marinelli, una ragazza che in passato ci ha accompagnato anche in qualche live e ha suonato anche in questo pezzo. Nella calma. Perché la componente acustica comunque nei Mary Dolls c'è sempre. Da sempre, vuoi per alcuni locali che però l'abbiamo, questa dimensione l'abbiamo sviluppata di pari passo con quello che è la nostra. Quindi un live che voi fate, al di là dei locali, c'è sempre un momento acustico. O no? Anche proprio interi concerti. Anche interi concerti. Concerti con chitarra e basso acustico, percussioni e violoncello. La settimana prossima apriremo il concerto di Marta sui tubi e lo faremo in acustico. E poi è un acustico proprio minimal, perché abbiamo un tamburone, un timpanone, suonato dal batterista, e poi noi siamo così come stasera. Quindi senza grossi arrangiamenti. E come fate? Stasera avete ridotto gli strumenti, avete presentato i pezzi in acustico. E quando farete il concerto sarà una presentazione simile o al di là della percussione? Un poco diversa. Così. È molto più percussivo che melodico come acustico, in realtà. Nel senso che... Dal movimento. Esatto. Quello. Quindi il movimento c'è sempre, c'è poco da fare. Benissimo, allora abbiamo parlato delle varie date legate appunto ai Mary Dolls, partendo dal 2001, arrivando al 2013, non ci siamo fermati nell'estate del 2012, dove siete stati chiamati per una campagna pubblicitaria molto importante. Vediamo se gli ascoltatori se lo ricordano attraverso la vostra spiegazione del momento. Vai. No, non facciamo pubblicità, diciamo solo che la Vodafone. Sì, ecco. Ci hanno chiesto non solo di le nostre canzoni, ma anche proprio di partecipare fisicamente a questa campagna pubblicitaria della compagnia telefonica già citata. E praticamente facciamo quello che sappiamo fare, perché le pubblicità sono ambientate a un nostro concerto, e quindi noi siamo sul palco e suoniamo i nostri strumenti e cantiamo le nostre canzoni. E poi sono due in realtà pubblicità virali molto veloci, quindi di 30 secondi. In una c'è un surfista che fa surf sulla gente e poi cade, e nell'altra stuntman, un ragazzo che si lancia dal palco per poi cadere in pubblico che si apre. Nel peggior incubo di qualsiasi musicista. Adesso la ricordo anch'io. Benissimo, quindi vi siete prestati anche per questo genere di cose, tanto per ampliare giustamente le conoscenze, perché la musica può far breccia, ha il potere di far breccia un po', diciamo, ovunque. Allora, un altro pezzo dal vostro CD intitolato per l'appunto La Calma, e in questo caso un brano che in un certo senso si qualifica un po' le tagliatelle, no? Quindi Fatto in Casa. Allora, brevemente un cappello su questo titolo, Paolo. È un pezzo molto diverso dagli altri del disco ed è un po' anche riprendendo i discorsi che facevamo prima sul percorso musicale di ogni band. Questo è il passo prossimo che faremo, ovvero una dimensione meno da chitarra distorta, più da chitarra acustica, però utilizzata in questo modo, ovvero molto ritmico, per fare dei pezzi più originali, almeno secondo noi. Allora ascoltiamolo, questo si intitola Fatto in Casa. Loro sono i Mary Dolls qui a Blu Radio Veneto. È che tu vuoi godere anche quando va male, è che tu vuoi sapere se davvero poi va così male, e vuoi la pancia piena, e vuoi la f***a nuova, e te ne freghi anche se sparano, che tanto fanno fuori gli altri e la coscienza buona. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Eccoli qua, i Mary Dolls, un altro pezzo ascoltato, un altro pezzo molto forte. Si intitola Fatto in Casa e qua si parla chiaramente della guerra dei soldi. Si sente proprio urlare questo: soldi, soldi, tanti soldi, perché per avere tutto ci vogliono i soldi, per fare tutto ci vogliono i soldi, e per avere anche la coscienza a posto, tra virgolette, bisogna avere i soldi, no? Quindi per, diciamo, stare tranquilli, e quindi per far sì che gli altri possano parlare, ma che in un certo senso noi ci stia fuori da certe situazioni, si viva nella propria villa super trincerata, e quindi pensare solo ai soldi. Ogni riferimento è puramente casuale, puramente. Allora, sì, non abbiamo citato nessuno. Ecco qua, quindi tanto di tastiere e di violini, quindi un brano davvero, oserei dire, orchestrale, che si può fare anche con un gruppo ancora più ampio. Sì, infatti per in questo caso dal vivo abbiamo un altro chitarrista per fare questo pezzo e dei synth, perché altrimenti è impossibile. Sarebbe un'altra cosa. Dimmi. Impossibile, no. No, è possibile, è possibile. Nulla è impossibile per i Mary Dolls. Lo dico perché i pezzi comunque nascono sempre dalla chitarra e voce di Paolo, quindi già hanno una struttura e stanno in piedi da soli. Chiaramente con il synth e la chitarra. Da un certo. Però Paolo diceva al microfono spento che è l'indirizzo, è un piccolo indirizzo verso una nuova dimensione vostra, praticamente, anche tu dicevi sempre al microfono spento. State ruotando verso questa dimensione, allontanandovi un pochettino dallo stereotipo della musica grunge, per fare una musica leggermente diversa, potenzialmente diversa. L'uso del synth, non so se il synth verrà utilizzato in qualche altro pezzo del disco nuovo, però probabilmente sì, nel disco che uscirà probabilmente sì. Diciamo che Fatto in Casa, ma anche La Stessa Calma, sono gli ultimi pezzi scritti del disco, dove si percepisce questa nostra voglia comunque di in un certo senso cambiare direzione. Poi forse è anche naturale, non lo sappiamo, però probabilmente già a dicembre entreremo in studio per registrare il nostro terzo disco. Quindi La Calma rappresenta una base finale, cioè abbiate finito un percorso, adesso col nuovo disco ne riprenderete un altro praticamente. Si dice che il terzo disco sia il disco della maturità, si è sempre detto. Cosa dici? Sentiamo. No, non si sa mai. Ok, allora c'è ancora il tempo di ascoltare un altro pezzo dal disco. Poi ricordiamo, dalle 22:30 ci sarà Alberto Prisco con la sua classifica rock fino alla mezzanotte. Direi ci ascoltiamo ancora A Testa in Giù, per poi tornare per salutarci. Ancora quindi Mary Dolls qui a Blu Radio Veneto, con questo pezzo sentito appunto A Testa in Giù, dall'album che porta il nome di La Calma. Eccola qua. Non avere Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Mary Dolls con La Calma qui a Blu Radio Veneto, una canzone a testa in giù, probabilmente dedicata a un pipistrello, no? Sto scherzando naturalmente. Un rock molto serrato quello dei Mary Dolls per questa interpretazione, con un'altra maniera di vedere il mondo, non certo un mondo positivo fatto di guerra e di morte, per cui a un certo punto uno dice basta, non è che voglia scendere, ma voglio vedere il mondo da un altro punto di vista, quindi a testa in giù. Paolo, come prima, diciamo che scusa, ti invito a parlare con l'altro microfono perché probabilmente c'è stato sì, ecco. No, dicevo che sì. Sei incredibile perché cogli perfettamente, no? Quello che... Quello del pipistrello, dicevi? Ah no, scusa, sì, l'interpretazione della canzone, scusami. Sì. No, infatti a testa in giù vuole essere un po' una provocazione, ovvero non vedere tutto da un'altra prospettiva che magari è migliore. Ma certo. Questo è un pezzo assolutamente punk, Paolo, secondo me, cosa dici? È un pezzo molto tirato, sì, che si avvicina almeno... Si avvicina. Scende nel punk e poi si allontana dal punk, ritorna nel punk, insomma è un pezzo duro, sì, assolutamente sì, sì. Duro. Il batterista qua si dà da fare, si è dato da fare in tutti i pezzi, però questo è più degli altri pezzi, secondo me. Ha da fare solo quello, però. Ha da fare solo quello. È per quello che non è venuto questa sera, perché deve riposarsi, ha detto così. Benissimo, quindi lo salutiamo ancora una volta. Allora sono le 22:20, tra poco anche 21. Che dire, noi abbiamo passato benissimo del tempo con i Mary Dolls. Ancora, ecco, in fase conclusiva ancora un saluto che va a chi vi accompagna anche in live, il chitarrista, diciamo, aggiunto. A Bloody Fab Bunny, che dovrebbe sì. essere anche una vostra conoscenza, perché sì. era il chitarrista dei Van Cleef Continental, che sono stati qua ospiti da voi. E mi hanno anche detto di salutarvi. Ah, bene. Oh, benissimo, bene. Allora siamo contenti. Vedi che qualcuno sempre si ricorda di noi, eh? Certamente, certamente. Quindi ci dice salutiamoci. Allora, quali saranno i prossimi concerti di Mary Dolls in giro per l'Italia, naturalmente? Non parliamo solo di date venete o lombarde. Beh, il 12 settembre, settimana prossima, saremo al Carro Ponte di Milano. In apertura, con un concerto acustico, in apertura dei Marta sui tubi. Poi ci sono altre date che pubblicheremo sul nostro sito a breve, delle confermate. Sì. Allora ricordiamo brevemente ancora una volta qual è il sito internet di riferimento. Marydolls.it, all'interno del quale si potranno avere tutte le informazioni. Poi sì. abbiamo un Facebook molto attivo. Benissimo, anche in cui postiamo qualsiasi cosa e ci Bene. Potete trovare lì e scriverci lì. Benissimo, quindi le maniere per contattare i Mary Dolls sono molte, le maniere per entrare in possesso del disco altrettanto, diciamo, sì, di facile, diciamo, accesso. E quindi noi in finale di trasmissione ringraziamo i Mary Dolls per essere grazie a voi. Con noi, però non andate via subito, mi raccomando, perché dovete cantarci un ultimo pezzo, così in chiusura, perché noi salutiamo i nostri ascoltatori, ricordiamo che dalle 22:30 appunto c'è il pezzo di il programma di Alberto Prisco fino alla mezzanotte dedicato alla classifica rock. Allora un breve cambio di microfono, ecco, grazie Maurizio, perché abbiamo qualche defiance con un microfono proprio nella parte finale, quindi il tempo di sistemare ancora un nuovo microfono di fronte a Paolo. Colpa del lampo. Fai 1, 2, 3 prova, vediamo se arriva. Sì, sì. Benissimo, allora ci siamo, quindi possiamo salutare i nostri ascoltatori e lasciare i microfoni aperti ancora una volta ai Mary Dolls. Ricordiamo ancora La Calma e il titolo del loro ultimo lavoro, e quello che invece ci andiamo ad ascoltare è proprio un'altra canzone tra le più belle del del disco, si intitola appunto A piedi nudi, ed è appunto un'altra maniera di vivere la vita, è proprio quasi un voler parlare d'amore, di che cos'è l'amore, questa cosa meravigliosa che per immaginarla bisogna tenere gli occhi assolutamente chiusi. E poi ancora un invito a camminare a piedi nudi, perché solo a piedi nudi, magari su un parco, come diceva un noto scrittore di opere teatrali, si riesce ad assaporare il bene del mondo. E allora, A piedi nudi, Mary Dolls qui a Blu Radio Veneto. Ancora grazie ragazzi di essere stati con noi. Grazie a voi. Ringraziamo Paolo, grazie, ringraziamo Lorenzo, e grazie. Salutiamo a distanza Michele, la prossima volta sarai con noi Michele. E quindi abbiamo detto tutto da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara senza microfono. Sorrido, il solito grande e caloroso ciao. Ancora questo pezzo di Mary Dolls per salutarci. A presto ragazzi, grazie. Se l'amore dipende dal naso, se un po' dallo stile, se l'amore dipende dal caso, sa cos'è sottile. Se l'amore dipende da un bacio, sa cos'è carnale. L'abitudine toglie sapore come una canzone. Forse dipende dalle ore. Forse è la prima impressione. È andare a piedi nudi, a correre con gli occhi chiusi, per credere che c'è, anche se poi non c'è. C'è. E se dipende da piccole cose da mettere insieme e da incastrare per renderle vere come un'illusione. Forse dipende dalle ore. Forse la prima impressione. Un po' dallo stile.